Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è una partita fondamentale che sarà decisiva per il successo delle Smart City, è la partita della banda larga. Illuminazione intelligente, mobilità intelligente, amministrazione pubblica intelligente sono alla fine dati che circolano. In ultima analisi questi dati hanno bisogno di una rete su cui circolare. Ma che tipo di rete? Quali sono le alternative? E che cosa comporta per noi futuri utenti delle Smart City il fatto che la scelta cada su un modello di connettività piuttosto che su un altro? Ci sembra domande rilevanti alle quali quindi dedicheremo alcune puntate nel corso delle prossime settimane. Tra tutte le domande possibili però ce n'è una che è di fortissima attualità, riguarda le ben note frequenze che, sottratte al beauty contest che le aveva assegnate gratuitamente a Rai e Mediaset, ora potrebbero essere assegnate ad altro. La domanda è quindi: che cosa può circolare su queste frequenze oltre al segnale televisivo e quale potrebbe essere di conseguenza l'uso più proficuo di questo che è appunto un bene pubblico? Ne parliamo con il professor Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Buonasera Capone. Buonasera Melis. Allora Capone, assegnare delle frequenze significa in pratica assegnare delle fette di una torta, nel senso che la torta a un certo punto finisce, cioè le frequenze sono limitate, ma è una torta un po' speciale perché non tutte le fette di questa torta delle radiofrequenze sono però altrettanto preziose. Queste qui, come le definirebbe per esempio queste frequenze di cui si parla tanto? Beh, queste frequenze sono particolarmente preziose perché si trovano nella porzione bassa dello spettro, dove le condizioni di propagazione sono particolarmente favorevoli. Per fare un esempio, se devo coprire un'area di una città usando queste frequenze, avrò bisogno di un numero limitato di punti di accesso, perché queste frequenze... Pochi ripetitori. Stiamo parlando di frequenze, quindi per esempio di un wireless o di una frequenza radio, non importa, insomma, no? Esattamente. Queste frequenze riescono più facilmente ad attraversare gli ostacoli che sono trasparenti per queste frequenze. Se invece mi sposto in un altro pezzo della torta, dove magari c'è più spazio in termini di spettro, di possibilità di risorse da utilizzare per i sistemi di comunicazione, il problema è che le onde radio tendono a vedere gli ostacoli come opachi e quindi hanno più difficoltà di propagazione e quindi richiedono maggiori investimenti per l'utilizzo per i sistemi di comunicazione. Cioè in pratica si creano delle zone d'ombra dove il segnale non arriva e per eliminare queste zone d'ombra bisogna moltiplicare il numero di ripetitori di questo segnale sostanzialmente. Esattamente, quindi con costi molto più elevati. Come per illuminare una stanza, se uno vuole cancellare completamente le ombre deve mettere un sacco di lampadine dappertutto sostanzialmente. Quindi sono particolarmente preziose. Che cosa ci può passare su queste frequenze? Beh, ovviamente le frequenze possono essere utilizzate per vari scopi. Attualmente sono state utilizzate soltanto per la trasmissione broadcast di tipo televisivo, ma in realtà abbiamo già esempi in cui frequenze di questo tipo sono utilizzate per la trasmissione invece di sistemi di accesso radio alle reti di comunicazione. Recentemente abbiamo avuto nel mese di settembre le aste per le frequenze LTE, in cui LTE è il sistema radiomobile di quarta generazione, quello che tra qualche anno sostituirà l'UMTS, quindi ogni giorno con le nostre chiavette. Ecco, queste aste delle frequenze hanno prodotto un'assegnazione di un numero molto piccolo di canali in questa banda, intorno agli 800 MHz, e hanno portato allo Stato 3 miliardi di euro, molto di più di quelle assegnate sempre per lo stesso sistema LTE ai 2.6 GHz, che invece hanno fruttato soltanto 1 miliardo di euro, pur essendo molto più abbondanti. Perché hanno quel problema che poi l'infrastruttura è più complicata da costruire, è più costosa, ci vogliono più ripetitori? Esattamente, il valore economico di una frequenza ovviamente, come viene valutato da chi poi la compra la licenza, dipende ovviamente poi dopo da cosa ci si può fare sopra. Quindi da un punto di vista tecnico lei mi sta dicendo che queste frequenze hanno delle caratteristiche di estremo pregio, per cui è probabile che se vengono vendute a qualcuno che sa come usarle, e non è il caso del broadcast televisivo, perché ormai ci sono già centinaia e centinaia di canali, sa come usarle, nel senso sa anche come farle fruttare, realisticamente si potrebbero vendere a un prezzo molto elevato. Mi sta dicendo questo? Si potrebbero vendere a un prezzo più elevato, oppure senza pensare di ricavarci direttamente del denaro con delle licenze, si possono attivare dei servizi che usano queste frequenze e stimolare la crescita economica indirettamente avendo dei nuovi soggetti che entrano nel mercato e forniscono servizi che sono poi dopo sul mercato apprezzati dagli utenti. Certo. Ecco, tra le tante sigle che circolano, Wi-Fi, WiMAX, VLAN, eccetera, eccetera, su queste frequenze si potrebbe fare un po' di tutto? Sì, più o meno di tutto. In giro per il mondo la tendenza è a pensare di utilizzare queste frequenze per sistemi tipo Wi-Fi con eventuali modifiche al sistema di base che lo rendono più adatto a essere utilizzato a queste frequenze. Una delle partite fondamentali per quanto riguarda le smart city consiste nel dotare le città di una sensoristica diffusa e pervasiva, per esempio per la mobilità, l'illuminazione, l'inquinamento, eccetera, eccetera. Che ruolo potrebbero avere queste frequenze in quest'ottica? Beh, a livello internazionale si sta pensando di utilizzare degli spazi vuoti lasciati dalle trasmissioni TV di broadcasting per, vengono detti white spaces, queste spazi bianchi, spettro, spazi bianchi, per la possibilità di avere reti cittadini wireless che utilizzano queste frequenze per le trasmissioni dei sensori, per la trasmissione di telecamere di sicurezza nella città e anche per l'accesso internet a larga banda dei cittadini negli spazi pubblici. Ci sono esperimenti, soprattutto negli Stati Uniti, che per primi sono partiti nel cercare di regolamentare l'accesso a questi white spaces, e in America settimana scorsa è stato lanciato il primo esperimento di smart city in una piccola città del North Carolina che si basa proprio su questi sistemi di comunicazione che sfruttano i white spaces. Grazie professor Capone. Grazie, buonasera. Per stasera ci fermiamo qui, ma torneremo su questo argomento così rilevante per le città intelligenti. Per intanto buona serata.